Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, cercateci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare in podcast o live e scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure in diretta con un sms al 331-621-4013 o a diretta @popolarenetwork.it o anche su Telegram. Oggi è martedì e quindi la nostra rubrica Il Muro del Suono riprende, ci raggiungeranno in studio per mettere in relazione grande architettura e grande musica Roberto Centimeri e Riccardo Salvi. Vi parliamo poi dell'Eikomo Festival della Luce, un appuntamento che riunisce diverse forme espressive e artistiche, e ce ne parlerà Franco Brenna, il suo direttore artistico. Ricciarda Belgioioso invece ritorna su Piano City, di cui è stato presentato il programma 2018 un paio di settimane fa, si avvicina la data della manifestazione di quest'anno e ve la raccontiamo. Il ricordo di Armanno Olmi, scomparso da poco. Sapete che i funerali si svolgono in forma privata, noi però ci permettiamo di ricordarlo anche a Cult dopo averlo fatto in molte occasioni nella giornata di ieri con un'intervista di Barbara Sorrentini a proposito di un bel documentario che Armanno Olmi aveva girato poco tempo fa. Ma cominciamo invece con un libro, ne parliamo con un'intervista di Roberto Festa perché è in libreria da qualche giorno, Gramsci per la scuola, edito dall'Asino d'Oro, lo hanno scritto Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli con l'intento di raccogliere la produzione molto ampia ma dispersa degli scritti di Antonio Gramsci sulla scuola e l'istruzione. La prefazione del libro è di Marco Revelli, ne esce un volume sulla conoscenza come vita, sul sapere che è cambiamento e lotta alla rassegnazione. Roberto Festa ha intervistato i due autori, Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli. Molti di questi testi, molti dell'elaborazione di Gramsci sulla scuola che voi presentate in questo libro si leggono alla sua concezione, diciamo così, storico e critica anche proprio della cultura, no? La cultura come momento di possesso di se stessi, come momento di maturazione, ma di riconoscimento, diciamo così, del proprio ruolo e valore in in una situazione, in un consesso più vasto che è appunto quello di una società storicamente determinata. Ecco, come si lega, qual è il nesso che Gramsci crea tra la scuola come istituzione e la sua idea di cultura? Beh, il nesso sta nell'idea di cultura disinteressata, quindi una cultura legata all'essere umano. Non a caso noi abbiamo iniziato questo percorso su Gramsci con il capitolo che si intitola Che cos'è l'essere umano? È una domanda che si fa a Gramsci. Gramsci metteva in guardia da espressioni che sono diventate di moda e sono restate nel lessico del didattichese di moda per tanti anni, come la centralità dello studente. Lui diceva: diffidate quando si comincia a parlare della centralità dello studente. Bisogna partire dal fatto che la scuola la fanno gli esseri umani, che in campo ci sono esseri umani, docenti e studenti, ognuno con le proprie nel proprio specifico ruolo, ma in cui c'è un'interazione che Gramsci ha messo sempre in evidenza. Gli insegnanti apprendono, gli studenti a volte possono essere loro stessi insegnanti, in una interazione continua in cui ci sono continuamente ribaltamenti di ruolo. Quindi la riflessione di Gramsci su che cos'è l'essere umano, che è una riflessione originalissima, anche se lui aveva gli strumenti di cui poteva disporre appunto all'inizio del Novecento, fa sì che il discorso sulla cultura e sulla scuola sia rivoluzionario. Oggi si guarda alla scuola come semplicemente un passaggio per entrare nel mondo del lavoro, come se gli esseri umani fossero destinati soltanto a questo, come se non avessero emozioni, affetti, creatività, fantasia, e questo è appunto quello che manca alla scuola di oggi sempre di più, e che invece il pensiero di Gramsci restituisce fortemente. Ecco, senta, Donatella Coccoli, ovviamente Gramsci sono anche le interpretazioni, no, di Gramsci, da Togliatti a Tasca a tutti gli altri. Allora, uno dei vostri capitoli, il nono se non sbaglio, è dedicato a quello che voi definite l'anti-Gramsci, no? Quindi Don Milani, l'autore di Lettera a una professoressa. Ecco, perché Don Milani fu un anti-Gramsci? Noi abbiamo dedicato un intero capitolo a Don Milani perché proprio seguendo il percorso, diciamo, della fortuna di Gramsci dopo la sua morte, praticamente abbiamo scoperto che è stato completamente annullato e che per esempio i giovani del 68 leggevano la lettera a una professoressa e non magari le lettere di Gramsci o comunque altri scritti che erano stati pubblicati. Perché questo? Perché Don Milani aveva denunciato una situazione di disuguaglianza, però successivamente si è creato un mito che va al di là anche del contesto storico, e Don Milani era colui che inneggiava alla scuola privata, che considerava i professori, e siamo negli anni successivi alla grande rivoluzione della scuola media unica, quindi la scuola anche di massa, dei professori che erano come dei privilegiati, che non vedevano la relazione con lo studente. Ma questo è un pamphlet, intanto, la lettera a una professoressa, non è, diciamo, un'analisi dotata di dati e contenuti scientifici. E invece è stata presa diciamo come esempio di distruzione, tra virgolette, del costituito, dell'istituzione, senza una visione positiva. Poi non ci dimentichiamo che la relazione tra studente e allievo in Don Milani è completamente distrutta, cioè gli studenti sono creature, lui lo dice spesso nei suoi testi, non solo nella lettera, sono creature per il maestro, non sono, diciamo, dei soggetti con cui interagire e con cui stabilire una relazione umana da cui poi deriva la conoscenza. Quindi per noi ci sembrava importante affrontare il capitolo Don Milani, che è proprio l'anti-Gramsci, perché come Gramsci si opponeva a qualsiasi tipo di dogmatismo, soprattutto quello cattolico, lui scrive tantissimi articoli sulla morale gesuitica e cattolica che ha influenzato negativamente la formazione degli italiani, e dall'altra parte abbiamo un Don Milani che sostiene che il Vangelo deve essere il libro di testo. Giuseppe Benedetti, adesso Donatella Coccoli parlava della morale gesuitica e cattolica, no? E quindi della critica gramsciana anche nei confronti della scuola confessionale. Ecco, invece, in cosa trovava e come ritrovava, qual era il riconoscimento del valore della scuola laica? Il valore della scuola laica, intanto per Gramsci è l'unica scuola possibile, perché nella scuola ci deve essere una libertà assoluta, come diceva Donatella, l'antidogmatismo forse insieme alla fusione di pensiero e prassi, pensiero e azione, sono le caratteristiche fondamentali dell'opera di Gramsci. Cioè il più grande lascito, pensiamo che sia proprio questo, l'antidogmatismo e la fusione di pensiero e azione. Cioè una scuola non può che essere laica, non può che incentivare la ricerca del superamento del passato. In questo Gramsci era rigorosissimo, tanto che diceva che anche la filosofia della praxis, che era appunto la sua fonte di ispirazione, era il suo pensiero basilare, un giorno sarebbe stato superato. Quindi la conoscenza in continuo progresso è un fondamentale obiettivo di Gramsci, e soltanto una scuola laica, e cioè libera, in cui c'è un'interazione vera tra insegnante e studente, può realizzare. Senta, Donatella Coccoli, faccio un'ultima domanda che riguarda due aspetti su cui Gramsci si misurava e che voi raccontate anche in questo libro. Da un lato la non riduzione, diciamo così, delle scuole professionali a incubatrici di mestieri, e l'altro è il valore delle lingue antiche, greco e latino, che secondo Gramsci erano strumento didattico importante nonostante la mancanza di un uso immediato e pratico, no? E anche questo, come dire, misura tutta la distanza tra la nostra scuola attuale, in cui le scuole vengono definite il petrolio, no, del futuro, e invece la visione di Gramsci. Ecco, ci vuoi dire qualcosa proprio di questo aspetto e dell'insistenza sul valore umanistico che Gramsci fa? No, questo è uno degli aspetti che ci ha entusiasmato anche di più, proprio per la differenza rispetto all'oggi, in cui predomina questa cappa, no? Che si può definire benissimo neoliberista, per cui la scuola deve avere un fine, l'obiettivo è quello delle competenze, del lavoro, eccetera, non del sapere critico. Ecco, ti rispondo proprio focalizzando l'attenzione sul discorso del sapere critico. Cioè, intanto l'istruzione deve essere disinteressata, come diceva anche Giuseppe, la cultura disinteressata. Quindi lui proprio esplicitamente diceva che non deve essere finalizzata al lavoro, soprattutto appunto la scuola media unica, e quindi deve formare lo spirito critico, il sapere critico, da cui deriva la libera scelta degli esseri umani e da cui deriva il cambiamento della società. E poi, per quanto riguarda per esempio il valore delle cosiddette lingue morte, che lui diceva però che il latino e il greco, non sono lingue morte, ma rivivono mentre i ragazzi le studiano, servono per capire il superamento rispetto al passato, servono per capire ciò che c'è stato prima, perché, come diceva Giuseppe, per lui la rottamazione, tra virgolette, non esiste, esiste il superamento, esiste la conoscenza di ciò che è stato prima di noi, e attraverso la conoscenza il suo superamento e quindi il cambiamento della società. Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli, autori di Gramsci per la scuola, un libro edito dall'Asino d'Oro, nell'intervista di Roberto Festa. adesso il nostro ricordo di Ermanno Olmi, recentemente scomparso. Il grande regista è stato intervistato da Barbara Sorrentini nel 2017 in occasione della presentazione del documentario Vedete, sono uno di voi, dedicato alla figura di Carlo Maria Martini. Semplicemente con il suo primo incontro con il Cardinal Martini, quando è stato? È stato un mese dopo che era arrivato a Milano, forse anche meno, un paio di settimane, sì, per Rai 1, un'intervista al Cardinale Martini che prendeva, diciamo, sede, albergo, nel senso non della, nella città di Milano dove era stato destinato. Quindi sono andato ad incontrarlo per dargli il benvenuto e porgere a lui qualche domanda, no? E le dirò che mi aveva quasi messo a disagio come lui, che era l'uomo, diciamo, nella graduatoria dei valori apicale, fosse lì davanti a me con una umiltà di chi vuole ascoltare, non di chi vuol fare prediche, o comunque, come spesso capita anche a me, di essere, di compiacermi della mia verbosità, ma è stato, come dire, una, è come quando si accordano i violini, le cose là nella buca dell'orchestra, arriva il momento in cui tutti gli strumenti sono intonati. Ecco, Martini ha intonato gli strumenti della convivialità e da lì ha cominciato subito a dare indicazioni di scelte che erano ormai diventate un'urgenza per la città come Milano. E prima, come dire, non c'è di meglio che il mondo laico per passare come filtro, come cartina del tornasole, attraverso, è una sorta di radiografia dello spirito, no? Quindi tu fin dai primi istanti lanci dei segnali di cui non sei consapevole che stai lanciando dei segnali, però ciò avviene. Tu guarda per esempio come i bambini piccoli, come hanno la capacità di percepire se tu sei loro in qualche modo amico oppure sei una persona a cui i bambini danno fastidio. La categoria appena più sotto sono i cagnolini, ecco. Ma ecco, c'è questo, ribadisco, questa capacità da parte degli ignoranti di capire di più di quello che gli acculturati hanno. Perché si percepisce solo con un tipo di lunghezza d'onda che noi nella vita poi, per diventare adulti, ahimè, perdiamo di mano. La voce narrante è quella di Ermanno Olmi. Come mai? Guardando il film c'è il senso di una partecipazione totale. Sì. Proprio è stato il montatore mio che mi ha detto: perché io faccio sempre una colonna guida con la mia voce? Dopodiché chiamo un attore che fa... Ho capito che non potevo giocare la carta dello speaker che ha la bella voce e che magari non capisce niente di quello che sta dicendo. Allora io mi sono detto, ma io posso essere il nonno, o addirittura il bisnonno, o l'arca di Noè compresa, no? Per parlare con i miei contemporanei. La cosa migliore è parlare con la mia voce, è la cosa più giusta, più onesta. Sì, guarda, lì, come dire, Milano, lo sappiamo bene, stava attraversando, comunque era la vigilia di un momento tragico. E chi poteva in qualche modo mettere in salvo dal calpestio offensivo che la realtà, che in quel momento prendeva delle forme, ahimè, molto preoccupanti? Ecco, questo calpestio era... conteneva l'indicazione di ciò che noi, come condanna, potevamo fare e non abbiamo fatto. Per cui non è la procella, non è la, come dire, il oh santo Dio, quando sono stanco, ragazzi, la burrasca, no, che si può temere, è non avere nella burrasca una capacità di tenere il timone. Se tieni il timone, esci poi da questa precarietà tragica. Grazie. E questo era Ermanno Olmi al microfono di Barbara Sorrentini, che lo ha intervistato sul suo documentario dedicato al cardinal Martini. Ermanno Olmi, ve lo ricordo, scomparso di recente. Qualche settimana fa è stata presentata l'edizione, la settima, di Piano City, la manifestazione che porta il pianoforte in tutte le sue forme, le sue fogge, le sue declinazioni, in giro per gli spazi della città di Milano. Piano City Milano, 18-20 maggio, si tratta di un'edizione che come sempre porta con sé delle novità. E allora Ricciarda Belgioioso, come gli anni scorsi, è collegata con noi per parlarne. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto da cosa vogliamo partire? Dai contenuti e dalle novità oppure dai luoghi? Perché anche lì ci sono, insomma, delle notizie da dare. Le due cose sono legate. Bene. Perché Piano City ogni anno cambia, proprio perché segue le trasformazioni della città, per cui poi cerchiamo di trovare le musiche adatte ai luoghi, per cui insomma le due cose si incastrano. Però posso dire le grandi linee, che una grande novità di quest'anno è che abbiamo un piano center notturno che sarà alla Palazzina Liberty, perché Piano City, che comincia il venerdì sera e va avanti ininterrottamente fino alla domenica sera, ha anche dei concerti di notte, e quindi questa volta sono tutte e due nello stesso luogo, Palazzina Liberty e parco circostante, con un sistema anche per poter ascoltare non solo dal vivo la musica, che tra l'altro quella delle notti è pianoforte elettronica, ma anche in giro per il parco con un sistema di cuffie. Però le novità sono tante. Tra i luoghi, per esempio, quest'anno abbiamo Teatro Gerolamo, Fondazione Feltrinelli, ma poi abbiamo un percorso a cui teniamo molto nelle periferie, che va da Via Padova, che chiudiamo al traffico per un concerto spettacolare a quattro pianoforti, a Corvetto, Piazzale Ferrara, e tutto un percorso di concerti, soprattutto rock e pop, in questi grandi spazi, ecco, più periferici. E, novità, posso dirvi qualche nome. Apriamo con Aziza, quindi un'apertura, Aziza Mustafa Zadeh, un'apertura sì, al femminile quest'anno, che ci fa molto piacere. Ma poi abbiamo anche Allora, non è popolarità perché è già stato con noi la prima edizione Vinicio Capossela, ma sì, la novità è che sarà la grande chiusura di Piano C di quest'anno, e che ha pensato un progetto speciale per noi con solo con tutti i pianoforti che l'hanno accompagnato, la storia dei suoi pianoforti. Quindi non canta, ma ci racconta come le sue canzoni siano nate dalle voci del pianoforte, quindi una cosa molto affettuosa per noi e per la città di Milano a cui teniamo. Altra novità è che in realtà abbiamo già cominciato, perché c'è un progetto che dura 2 settimane, che è cominciato ieri, aspettando Piano City, con questa artista performer, che in realtà è un pianista molto noto nel mondo, che è Marino Formenti, per musica classica e contemporanea, che ha portato un progetto un po' speciale che si chiama Nowhere, e per cui è in un unico luogo, mangia, dorme, suona il pianoforte tutto il giorno, e il pubblico è invitato ad andare a trovarlo e visitarlo in Viale Toscana da Santeria, Social Club, Viale Toscana 31. Sono stata ieri ed è una cosa abbastanza veramente toccante, emozionante. Tra l'altro c'è anche uno streaming per chi non volesse cominciare a curiosare da casa. Beh, soprattutto per chi magari non può muoversi e vuole seguire Piano City, lo streaming è molto molto utile. Tra i luoghi c'è anche Mare Culturale Urbano, che conosciamo bene. A Mare, siamo molto affezionati a Mare, perché con noi, non solo, ma Mare ha aperto con Piano City, per cui c'è un legame speciale con loro, e per cui anche quest'anno sono con noi. Mare è un luogo ideale anche per fare cose in particolare dedicate ai bambini, quindi è una grande festa musicale che ci sarà là, e per cui certo, assolutamente vi consiglio di passare anche da Mare. Ma in effetti i nostri numeri sono alti, perché sono 470 appuntamenti, ma l'idea è proprio quella di occupare la città con questi pianoforti e portare la musica un po' dappertutto. Naturalmente non torneremo sui singoli appuntamenti, vi ricorderemo quello che accadrà mano a mano che si avvicinano le date dei concerti. Abbiamo già rinunciato da anni a raccontare tutto quello che succede a Piano City, perché altrimenti avremo bisogno tante diverse trasmissioni apposta, ma vi seguiamo da sempre, quindi concludiamo la nostra conversazione magari raccontando un po' quali sono i generi che, visto che il menu da consultare, di cui poi ricorderemo i riferimenti online, dà la possibilità anche di scegliere i concerti per generi, non soltanto per luoghi oppure con altri criteri, giusto? Assolutamente, questo è importante, perché la nostra unica regola in realtà è il pianoforte, cioè non abbiamo altri strumenti, e invece ecco, sui generi proprio spaziamo dalla barocca alla più contemporanea, musiche originali, jazz, eccetera. E in effetti sia il programma cartaceo che l'online sono fatti apposta perché, diciamo, per incoraggiare un creati il tuo percorso a Piano City cercando quello che si desidera. Vi faccio un esempio: abbiamo dei programmi, chiamiamoli programmi speciali, che sono quelli un po' più lunghi, degli ascolti anche di 9 ore filate o 10 ore filate, e già tra questi potete trovare tutto un programma Debussy, oppure l'integrale delle sonate di Schubert, ma poi c'è anche tutto Satie. Sì, certo, poi cerchiamo di rispettare un po', però c'è anche il calendario. Esattamente, c'è anche la contemporanea per chi la vuole. Ci sono anche queste cose un po' più giocose. L'anno scorso abbiamo cominciato con Michael Nyman, questa orchestra di 50 toy pianos, che quest'anno torna e sarà al MUBA con In Si di Terry Riley, quindi questo pezzo così rappresentativo per il minimalismo, però è divertente, fatto con 50 pianofortini. E però ecco, certamente i generi, appunto, tanto che c'è anche pianoforte ed elettronica, che è l'unica eccezione che facciamo, diciamo, al pianoforte solo, perché l'elettronica serve ad amplificarlo e a così, ecco, non finge altri strumenti, ma... E anche perché l'elettronica vi porta tanto pubblico giovane, no? Come per esempio dimostra la rassegna San Fedele, che è di altro tipo, ma insomma l'elettronica è proprio la musica di questo momento, certo. No? Anche quindi, ecco, per cui si accontentano quelli che amano la barocca, ma anche quelli che vogliono ascoltare la bossa nova, piuttosto che lo stride piano, per esempio, che mi incuriosisce molto, infatti. Però comunque, al di là di questo, Piano City vi dà appuntamento, ve lo ricordiamo ancora, dal 10 al 20 di maggio in tanti luoghi della città, pianocitymilano.it per consultare, cominciare a consultare gli appuntamenti che vi interessano, poi vedrete che avrete anche una guida per costruire un vostro percorso personalizzato. Io ringrazio Ricciarda Belgioioso, appuntamento allora dal 18 dal al 18. 20 di maggio, dal a risentirci, buon lavoro, grazie, a presto. Grazie, grazie molto, a presto. Cominciato lo scorso 2 maggio, durerà fino al 20 a Como il Lake Como Light Festival, o Festival della Luce, patrocinato da Città della Luce, da Fondazione Alessandro Volta, con tanti partner. È giunto alla sua quinta edizione e parte dal presupposto di festeggiare la luce, anche perché il prossimo 16 maggio sarà la Festa della Luce. Verrà celebrata in tanti modi, in tanti luoghi diversi, anzi la giornata internazionale, perdonate, della luce, che è stata introdotta dall'UNESCO proprio quest'anno. Quindi direi un festival che è collocato anche dal punto di vista del calendario in modo molto accorto e che prevede da sempre, ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, in altre annate, un insieme di proposte artistiche e culturali. Ci sono degli incontri, ci sono degli eventi, ci sono delle mostre. Allora diamo il bentornato a Franco Brenna, che è il direttore artistico del Lake Como Light Festival. Buongiorno, bentornato allora. Buongiorno a voi tutti, grazie di avermi richiamato e benvenuti a voi all'appuntamento 2018 del Festival della Luce. Allora, l'UNESCO si è ricordato, o meglio si è accorto, che la luce va celebrata, quindi certo. Questa è già una bella notizia. Partirei proprio dal 16, che è una giornata speciale in cui succedono tante cose nel vostro giornata festival. Giornata molto particolare davvero, è a metà della settimana, è un mercoledì. Il Teatro Sociale di Como, che è un po' il nostro salotto culturale della città, aprirà le porte a questo importante evento, la prima giornata internazionale della luce, che è appunto istituita dall'UNESCO. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Festival della Luce nella città di Alessandro Volta, che è la luce della scienza, come dire, che è quello che ha permesso a tutti gli scienziati, a tutti i ricercatori dal 1700 in avanti di arrivare ad oggi con tutto quello che ne consegue, viene celebrato, viene festeggiato, ma non solo lui, ma è proprio un inno alla luce. Cosa succederà? Verrà attribuito un premio europeo per la fisica, ed è un premio europeo per la fisica EPS Edison Volta. Cosa vuol dire EPS? European Physics Society, cioè la società europea dei fisici, della fisica dei fisici, attraverso il contributo e il sostegno di Edison, darà appunto questo premio Edison Volta, e sarà una borsa di studio Edison in memoria di Francesco Somaini, che è stato un giovane ricercatore che ha svolto ricerche in campo chiaramente della scienza fisica e soprattutto rivolte queste ricerche ai temi dell'energia. Non possiamo ancora dire nulla di chi vincerà, perché no, questi sono ancora nomi, chiaramente, come essere alla, non lo so, a Hollywood, all'Oscar, sì, al momento dell'Oscar, quindi i nomi sono ancora segretati. Però possiamo dire che sarà una serata in cui c'è Antonio Ballista al pianoforte, insomma ci sono, no? Voi avete questa abitudine di unire. La serata che, primo, è aperta al pubblico, dietro prenotazione, chiaramente uno deve solo registrarsi sul sito del festival, che è festivaldellaluce.it, è totalmente gratuita e sarà magistralmente e molto simpaticamente diretta e condotta da Michela Presta, che è un professore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria, qui appunto a Como. Michela Presta, personaggio veramente straordinario, di grande verve, di grande conoscenza, condurrà, farà da filo conduttore di tutta la serata, e in questa serata ci sarà musica colta, ci saranno improvvisazioni, ci saranno recite, ci saranno illusioni, ci sarà un giovane illusionista che attraverso questa Smart Magic condurrà appunto il pubblico in questo mondo delle illusioni luminose. Quindi penso che possa essere interessante sia per i più giovani che per i meno giovani questa serata, che comunque è concentrata su un vero significato simbologia scientifica. Sì. Ecco, c'è molta attesa anche per quello che dirà Luca Mercalli, un volto molto noto anche a livello, certo, popolare, no? Che interviene. Sì. Magari meno noto come volto, ma assolutamente stimolante e vibrante sotto tutti i punti di vista, con Piero Bianucci, dividerà la scena appunto sabato 12 sempre al Teatro Sociale, ma in Sala Bianca. Ci tengo a sottolineare che adesso stiamo parlando per gli eventi futuri, ma in questa settimana per esempio ospiteremo un gruppo teatrale giovanile che viene dalla Siberia, sì, che farà appunto anche loro, porteranno uno spettacolo con grandi effetti di luce e di contrasti all'interno dell'auditorium del Collegio Gallio di Como. È un gruppo fatto da 20 giovani, tutti ventenni, ballerini, attori, acrobati, che appunto arrivano dalla lontana Siberia, e sarà un punto d'onore anche di interscambio culturale con la lontana Siberia e con la vicina Russia. Questo, mi dica. Ci sono anche delle esibizioni, come dicevamo, delle mostre, l'ho detto, sì, all'inglese. C'è una mostra in atto che è stata inaugurata il 2 maggio e formalmente è stata aperta il 2 maggio, ma inaugurata sabato 5 maggio, organizzata dalla professoressa Maria Bondani, che è colei che da ormai 5 anni a questa parte organizza delle mostre didattiche, anche qui soprattutto rivolte al mondo della scuola primaria, secondaria e anche di gradi più elevati, all'interno del Palazzo del Broletto in Piazza del Duomo. Una mostra interattiva giocata su tutto quello che è luce e riflessi e illusione degli stessi. Il tema del Festival della Luce 2018 è luce, riflessi e illusione, quindi si gioca anche negli esperimenti costruiti dagli studenti della professoressa Bondani e dagli studenti dell'Istituto del Liceo Melotti di Cantù, tutto questo parterre di oggetti che incuriosiscono e insegnano le leggi della fisica legate ai fenomeni appunto della riflessione e dell'illusione. L'altra invece appunto è una mostra sulla moda, dicevamo, no? Sulla, sì, seta in particolare. Abbiamo una mostra sulla moda e sui tessuti. Sapete che Como è, sì, stata e lo è ancora capitano, diciamo, di un certo tipo di industria di altissima qualità legata al mondo della seta. Domani sera, per esempio, Michele Canepa, che è un notissimo imprenditore serico del comparto appunto serico comasco, terrà una conferenza sul futuro della bachicoltura, cioè si sta cercando di tornare alla coltivazione dei bachi da seta finalizzati, diciamo 4.0, ecco, finalizzati a nuovi tipi di produzione e di e valutare quale può essere appunto oggi la rivalorizzazione di questo compartimento. E poi ci sarà, c'è in questo allestito, questa conferenza la si terrà all'interno del Museo della Seta. Il Museo della Seta è un compendio straordinario, di straordinario interesse e di grande bellezza, dove sono riassunte tutto il mondo della seta, dall'antichità ad oggi, e qui dentro è appunto stata installata, a cura di Paolo Aquilini, una mostra molto interessante sull'illusione e sull'effetto scenico che le sete possono dare attraverso i loro riflessi. Quindi anche questa è visitabile, è aperta al pubblico, è gratuita ed è di grandissimo impatto, visivo. E ci sono ovviamente anche tanti laboratori, incontri, insomma il programma è molto ricco. Laboratori, incontri, certo, c'è tante passeggiate, c'è la passeggiata luminosa notturna, in bicicletta organizzata da Pietro Berra in notturna, anche questo qui, lui è una giornalista di grandissima attenzione, soprattutto molto vicino al mondo della poesia, e con i poeti organizza spesso passeggiate creative, le pubblica, le sponsorizza dal punto di vista del lancio, e con il Festival della Luce Pietro Berra ha sempre collaborato in modo estremamente importante, e anche in questa occasione organizza questa passeggiata luminosa appunto in bicicletta. Ci sarà la mostra dell'architetto Murano all'interno di San Pietro in Atrio, si tenterà un esperimento di collegamento appunto attraverso uno dei nostri sponsor, che anche se lo cito perché merita, Imad Felco, che è un produttore di luci del nostro territorio. Si cercherà di collegare il faro di Brunate, il faro voltiano di Brunate, con il Tempio Voltiano o il Monumento dei Caduti, ma probabilmente con il Tempio Voltiano, che risiede esattamente sulla passeggiata al lago, di fronte al lago. Quindi due simboli che vengono collegati con un fascio luminoso che fa da, e la mostra di Murano, appunto dell'architetto Murano, che fa da regia. Mi è venuto immediatamente in mente un estratto da Ritorno al Futuro, in cui si collegavano appunto dei campanili con un altro luogo per far succedere delle cose meravigliose. Insomma, il Festival della Luce, no, questo insomma era un sorriso, perché so che appunto Franco Brenna ha il senso dell'umorismo, e quindi assolutamente. Lake Como Light Festival, dicevamo, fino al 20 di maggio. Festival della Luce del Lago di Como, esatto. Lago, sì. Insomma, io l'ho detto in inglese, ma l'avete tutte e due le versioni. Sì, certo. Siamo ormai un territorio internazionale. Siamo un territorio nato per l'accoglienza, e quindi ricordiamo i riferimenti in rete allora. Sì, i riferimenti in rete è www.festivaldellaluce.it, dove ci si può registrare, si può curiosare, si può apportare anche critiche, apprezzamenti, e comunque si può assumere tutte le informazioni necessarie. Voglio solo ricordare che abbiamo trascorso l'ultimo weekend in compagnia di Vittorio Sgarbi, di un premio Nobel, Martin Cialfi, della chimica, scopritore della PFG, che è la proteina fluorescente, Green Protein Fluorescence Protein, che è venuto apposta da New York per portare il contributo alla sua, con le sue ricerche, e il professor Giacomo Rizzolatti, che è l'inventore, lo scopritore dei neuroni specchio, che anche lui con specchio, riflessione e illusione ha dato grande lustro alla ricerca italiana. Lustro è proprio il caso di dirlo, lustro. Mi scusi, ormai ho preso questa tendenza, insomma, cioè a vedere il doppio significato delle parole, ma insomma, a parte appunto il sorriso, il Festival della Luce, vi raccomandiamo di andare a consultare il programma, soprattutto se avete occasione di essere in zona, non siamo distanti, sì, da Milano, ma naturalmente appunto, quindi mezz'ora di treno o con lo Stato o con le Nord e siete a Como, in un luogo bellissimo, e io ringrazio immensamente Radio Popolare per essere sempre così attenta nei confronti del nostro festival. A risentirci, a Franco Brenna, grazie. Buon festival, a presto. Grazie. A voi, grazie. Sono tornati, stanno già litigando tra loro su chi deve far prima oppure no, simpaticamente, perché sono molto amici. Roberto Centimeri, Centimeri. Posso anche dirlo con l'accento sul... Riccardo Salvi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Allora, oggi parliamo di un grande artista purtroppo scomparso. Due anni fa scomparso, sì. Ah, l'artista musicista. Esatto. Okay. Tu pensavi all'architetto. Stavo pensando all'architetto e mi sono detto, ma quando è morto Jean Nouvel? E quindi si rivela subito l'architetto, cioè Jean Nouvel. Jean Nouvel. Ci mettiamo tanto francese oggi. Nei primi anni Ottanta Jean Nouvel vince il concorso per la realizzazione dell'Istituto del Mondo Arabo, che è un concorso promosso dal governo francese all'interno dell'iniziativa dei Grands Projets, anche conosciuti come Grands Travaux, che, come molti forse sapranno, era il programma di promozione dell'architettura moderna portato avanti da Mitterrand. L'edificio è il frutto della collaborazione tra, da una parte, la Lega Araba e dall'altra il governo francese, che vogliono creare un luogo di relazione tra queste due culture. E non solo due mondi e due culture in Sign of the Time, che esce nel 1987, uno dei migliori dischi di Prince. Per metà nero e per metà filippino o italiano, come lui ama raccontarci, ci racconta tante cose, anche che è nato due anni dopo, perché con un vezzo voleva togliersi un paio d'anni, ma non ha molta importanza, perché la pelle color miele di Prince non può che essere il risultato di un incrocio di più culture, come la soul music, musica di relazione fra tecnica e sentimento, musica che preme sui confini della melodia e della convenzione. Nasce a Minneapolis, dove chi è nero sono il funk e chi è bianco, che è la maggioranza, sono il rock. Ci sono due circuiti divisi di club, per i neri e per bianchi, ma Prince si fa il suo ascoltando le chitarre di Eric Clapton, bianco, e Jimi Hendrix. Nell'87, l'anno di Sign of the Times, siamo all'apice della riarchitettura degli almanacchi soul degli anni 60. L'Istituto del Mondo Arabo, che i francesi abbreviano in IMA, si trova alle soglie della periferia storica di Parigi ed è lungo la Senna, di cui in effetti segue la curvatura in planimetria. Ed è proprio dalla curvatura del fiume che si genera il volume più basso. L'istituto è costituito da due volumi, uno più basso di 9 piani e uno attestato al corpo sud di 11 piani. L'edificio viene separato dall'università di Jussieu per mezzo di una piazza pavimentata in pietra grigia, che è poi il colore dominante di tutto il complesso. E al suo interno si trovano diverse tipologie di spazi, è proprio un edificio multiuso, quindi si trova un ristorante, una biblioteca, un museo, un auditorium e degli uffici. Insomma, una contemporanea machine habité, come avrebbe detto il più volte già citato ed ingombrante Le Corbusier. E Prince attinge da un'altra machine, la sex machine di James Brown, per le sue provocazioni sessuali. Il suo genio musicale da polistrumentista recupera diversi suoni, dalle chitarre di Hendrix e di Clapton, come abbiamo già detto prima, dalle esasperazioni funk di Sly Stone di qualche puntata fa, e dalle ballad americane. Anche all'interno di Sign of the Times, come all'interno dell'IMA, si trovano diverse situazioni, anticipate sin dalla copertina. Il muso di un'auto, una batteria, una chitarra, una cloud guitar sul pavimento, fiori appassiti, insegne, una foto del nostro sfocata in un angolo. La confusione di queste immagini è il segno dei tempi, è ciò che li caratterizza, secondo Prince. Cosa caratterizza più di tutto questo edificio che molti avranno visto pubblicato? E infatti nel giro di pochissimo tempo diventa una vera e propria icona. Allora, quello che ancora stupisce il turista è lo studio della facciata, che viene trattata con diaframmi mobili che si muovono in relazione alla luminosità del giorno. In pratica, se c'è tanta luce i diaframmi si chiudono e al contrario, se fuori è nuvoloso i diaframmi si aprono. Cloudy, la cloud guitar di Prince. Insomma, è un edificio che sembra prendere vita con il cambiare delle ore della giornata e delle condizioni meteorologiche, e senza dimenticare che il pattern che si crea in facciata ricorda molto da vicino alcuni disegni tradizionali arabi. La facciata si muove, quella di Limar, si muove anche Prince, che come tutti gli artisti è continuamente in movimento. Prima di costruire qualcosa di radicalmente e musicalmente nuovo, fa sua una intera tradizione musicale per poi rileggerla. Sono 16 canzoni nel doppio album, affascinanti. Anche nei testi, in If I Was Your Girlfriend ci dice: se io fossi la tua ragazza, ti ricorderesti di dirmi tutte le cose che hai scordato di quando ero il tuo uomo? James Brown chiamava funky smell, l'odore del funky che si sente nel disco di Prince, come si sente molto, molto chiaramente anche l'odore del sesso che Prince alterna e sintetizza con l'amore. Qual è il pregio di questa architettura? Jean Nouvel riesce a sintetizzare abbastanza bene, bisogna dire, due mondi e due culture, ovvero elementi tradizionali arabi con tecnologie e sensibilità tipicamente occidentali. Ovviamente l'Ima negli anni 80-90 fa il pieno di premi, viene pubblicato su tutte le riviste del mondo e da quel momento in poi Jean Nouvel diventa una stella che brilla nell'empireo degli architetti contemporanei. Se da una parte è vero, come ha detto Roberto l'altra volta, che si nasce Sex Pistols per morire Steely Dan, non solo io lo dico, quindi Jean Nouvel è sicuramente la traduzione in architettura di questo concetto. In un'intervista rilasciata all'epoca delle quattro date del tour italiano da una stupefatta Vivi Izzo, il nostro dichiarava, oltre che ormai sentirsi prossimo a Dio, di ascoltare a ripetizione Tunnel of Love, Madonna, che all'epoca aveva True Blue, e Rossana Casale con Destino. Variegato quindi, ma coerente, nel doppio LP Sign of the Times ci sono tutte le declinazioni del soul, cioè il funk, il pop, il blues. Si strizza l'occhio a Barry White e infine c'è un lento, Adore, che dura quasi 7 minuti, perché la sintesi tra sesso e amore deve essere coerente, variegata e richiede del tempo. Aspetta che ci correggiamo. Scusami, no, perché ero talmente colpita dal fatto che avessi preso Ma ho messo il brano sbagliato, Roberto. Ma guarda, veramente io ho scelto Adoro. Ma porca miseria, mi sono concentrata su Sign of Times, di cui ricordavo il video che è stato, come dire, groundbreaking, come si dice, no? Anche perché esatto. Mescolava segni tutto, grafici tutto. Con la musica. Adoro è meno I'm conosciuto. Sorry, bene. I'm sorry, ci tenevo a rimettere Sign of the Times, okay. Scusami tanto. Grazie Riccardo Salvi, Roberto Cintieri. Naturalmente tutti. Questa è la sigla di Cult, noi vi diamo appuntamento a domani alle 11.30. Sign of the Times. Sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it. That was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Star Wars fly, neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Time. Crime.